Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si intitola Il cuore dei briganti ed è l'ultimo romanzo di Flavio Soriga, arrivato al successo con Sardinia Blues. Questa volta lo scrittore sardo sperimenta il romanzo storico. Una storia ambientata alla fine del Settecento in un'isola immaginaria, l'isola di Hermosa, dove il giovane Aurelio Cabré vendica i torti e punisce l'arroganza dei baroni. Ma perché Soriga ha scelto proprio questo periodo storico? Ecco che cosa ci ha risposto. Ho sempre pensato che avrei voluto raccontare una storia in un momento di grande cambiamento. La fine del Settecento, qualunque sia l'opinione che uno può avere della Rivoluzione francese, è stato un momento dopo il quale niente è stato più lo stesso, cioè si sono inseriti come dei virus fortissimi in tutta Europa, nel tessuto sociale, nel dibattito, dei concetti che forse non c'erano mai stati: libertà, uguaglianza, fraternità. Dopo niente è stato più come prima. Poi il romanzo in realtà non è che parli di concetti o di dibattito filosofico, è un romanzo d'avventura, però questa cosa, come gli anni 70 del Novecento, come la liberazione sessuale, quella culturale, quella femminile, sono dei momenti dopo i quali niente può essere come prima. Sono stati periodi, ecco, di grande fermento proprio da parte delle popolazioni. È un po' questo il tema di fondo di questo romanzo? Sì, è un romanzo che io volevo che si sentisse, non so se ci sono riuscito, il vento impetuoso della storia che corre, scalpita come 10.000 cavalli moreschi lanciati al galoppo. E allora parliamo del protagonista di questo romanzo, questo Aurelio Cabré, che è un po' a metà strada fra un brigante e un filosofo. Insomma, com'è che l'hai voluto descrivere? Sì, io avevo un po' in mente, naturalmente, tutti gli eroi, soprattutto cinematografici, insomma, che abbiamo conosciuto, da John Wayne al Johnny Depp dei Pirati dei Caraibi. Però è una persona che non è, come dire, superficiale. È un figlio di un marchese, ma è stato anche il segretario dell'ambasciatore del Santo Padre a Venezia. È uno che sa stare con le cortigiane eleganti, raffinate, ma pur sempre prostitute, di Venezia, così come con lo zar di Russia o con il suo delegato. Ed è uno che a Hermosa ha deciso di combattere una piccola battaglia, non per la giustizia sociale, ma contro i soprusi, contro le ingiustizie. È un brigante, una specie di Robin Hood, però non ruba per dare ai poveri, ruba per punire i corrotti e anche per costruirsi un destino. Questa è una cosa che ripete spesso. Insomma, una sorta di giustiziere della fine del Settecento. Sì, adesso poi a raccontarlo così mi sembra che il libro sia più intelligente di come lo sto dicendo, perché poi, come dire, questi personaggi è anche vero che riflettono su temi enormi. Quando uno scrive un romanzo storico, mi sono reso conto, non potendo mandare sms, non potendo i personaggi prenotare un volo Ryanair, non potendo parlare granché poi dei temi di cui parlo di solito, si devono concentrare sulle cose che valgono sempre. Quindi, per esempio, sulla religione, sul perché crediamo, sul perché gli uomini hanno bisogno di credere, su come deve essere strutturata la Chiesa, una qualunque Chiesa, e anche, per esempio, sul rapporto tra le leggi e i potenti. È giusto che alcuni potenti siano al di sopra delle leggi? Insomma, per intenderci, in questo romanzo si seguono un po' le gesta di questo protagonista. Sì, bisogna anche dire che Aurelio fa la sua piccola rivoluzione soprattutto forse per staccarsi dalla figura del padre, per cercare di affermarsi rispetto a lui. Adesso credo che ognuno di noi che scriviamo abbia alla fine 5-10 pagine del suo cuore, che sono quelle per cui ha scritto il libro. In questo caso, per Il cuore dei briganti, sono forse il dialogo tra Aurelio e il padre, quando Aurelio, dopo aver fatto le sue rivoluzioni, torna dal padre e scopre che è una persona diventata fragile, più fragile di lui. Questa è una cosa, credo, che succeda a tutti, e forse è il momento in cui si diventa grandi, quando ci rendiamo conto per la prima volta, da figli, che i nostri genitori sono più fragili e indifesi di noi. Ma c'è qualche legame con l'attualità? Tu descrivi questo mondo molto corrotto, molto negativo, in cui appunto c'è questo eroe particolare che cerca di rimettere le cose a posto. Io non ho una posizione politica in questo libro. Però cioè non c'è una critica, non c'è una critica sociale. Direi che io non do una risposta, però i temi che i personaggi stessi autonomamente mi hanno imposto di raccontare, di discutere, sono temi che valgono appunto sempre. Cioè il re a un certo punto discute del fatto che sia giusto o meno far votare tutti, perché dice gli ultimi, i più poveri, saranno preda di quelli che possono influenzarli. No, io ovviamente non la penso così, però dico che ci sono dei temi che sono sempre attuali, che ritornano. A un certo punto un personaggio dice: la rovina di una società comincia quando qualcuno, sia esso il re, un ministro o un vescovo, crede di poter essere al di sopra dei tribunali che devono giudicare tutti gli altri cittadini? Io ripeto, non ho una risposta, però nel cuore dei briganti, nonostante la patina così un po' svagata, un po' da film western, si discute anche di queste cose. Senti, ho letto in un'intervista che per descrivere questo protagonista Aurelio Cabré tu ti sei addirittura ispirato, comunque hai immaginato Vinicio Capossela vestito di velluto sardo e armato di fucile, è vera questa cosa? Un pochino, mi piacerebbe, sì, un fucile in una mano e una icnusa nell'altra, non so perché Capossela mi sembra una di quelle persone che riesce a reinventare i luoghi e forse ogni volta che scrivi un romanzo storico, ma in questo caso addirittura mi sono inventato l'isola di Hermosa, quindi ho dovuto inventare, reinventare la mia Sardegna pensandola in un modo totalmente diverso, quindi mi servirebbe sì l'aiuto, la complicità di qualcuno che come me ha voglia di reinventare. Una volta Capossela mi aveva detto: io sogno di attraversare la costa dell'Ogliastra con una vecchia macchina degli anni 50 decapotabile, un mirto in una mano, un'icnusa nell'altra, non so come guidasse, ma insomma appunto mi sembra un grande Panama. Il fatto che la costa tra Oliena, Orosei possa diventare una specie di West Coast americana mi sembra straordinaria, ecco. Quindi secondo me la società ha sempre un estremo bisogno nella loro inutilità delle persone che riescono a reinventare i luoghi, le persone e anche i paesaggi storici. Ma Capossela lo sa di questa cosa? Di questa non mi è capitato di parlargliene, appena lo incontro lo dico. E questo era Flavio Soriga, ora in libreria con Il cuore dei briganti, pubblicato da Bompiani. Veniamo ora a un libro che parla di un caso di cronaca nera realmente accaduto, l'omicidio di Simonetta Cesaroni, avvenuto a Roma in via Poma il 7 agosto del 90. In La ragazza con l'ombrellino rosa, Igor Patruno racconta 20 anni di indagini, quasi come se fosse un romanzo. Il libro racconta la storia dell'indagine, ma soprattutto cerca di ricostruire quello che è accaduto, almeno da quello che poi è emerso, il 7 agosto 1990. Ho scelto di chiamarla La ragazza con l'ombrellino rosa perché l'estate del 90 era un'estate piovosa, venne chiamata a singhiozzo e la mattina a Roma aveva piovuto e lei nell'andare in questo ufficio si era portata appresso appunto un ombrellino color rosa fucsia. Il libro è scritto con un linguaggio del romanzo giallo e anche la costruzione della storia è fatta utilizzando la tecnica del romanzo giallo, ma ovviamente tutto quello di cui si parla è stato rigorosamente verificato sia attraverso i documenti che sono stati resi pubblici dell'indagine sia attraverso ovviamente colloqui abbastanza lunghi e frequenti che ho avuto con svariate fonti. Avendo seguito con grande attenzione appunto le indagini su questo omicidio, lei che idea si è fatto? Intanto la prima idea che mi sono fatto è che il processo che è attualmente in corso, siamo arrivati alla 12ª udienza, è un processo indiziario, non c'è una prova ovviamente e anche gli indizi sono molto discutibili. Ricordiamo che il processo è a carico dell'ex fidanzato. Sì, che si chiama Raniero Busco. La mia impressione è che Raniero Busco, francamente, con l'omicidio non c'entri nulla. Raniero, a mio avviso, non aveva una motivazione per uccidere la sua fidanzata. Il loro era un rapporto molto, molto leggero, nel senso che seppure si frequentavano, non avevano un rapporto, diciamo, intenso, di passione, di amore. A me sembra che lui non avesse una motivazione ad uccidere. La mia idea è che Simonetta avesse conosciuto una nuova persona, non capendo probabilmente che questa persona aveva nei suoi confronti probabilmente qualche problema serio, insomma, ecco, che era una persona proprio forse malata. E quindi, diciamo, la mia impressione è che l'assassino vada cercato altrove. E questo era Igor Patruno, autore di La ragazza con l'ombrellino rosa, edizioni Ponte Sisto. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Se volete scriverci, il Cacciatore di Libri @radio24.it, ma ci trovate anche su Facebook. Un saluto da Alessandra Tedesco.